Victoria. Arrivò al molo pochi minuti prima che la Scandinavia salpasse. Due guardie avvolte in voluminosi piumini neri la osservarono indifferenti, le chiesero il nome, controllarono sulla lista e la lasciarono passare. Una volta salita a bordo ticchettando sui tacchi a spillo, vide che gli ospiti non avevano perso tempo. La festa era già in corso e una musica ad alto volume risuonava sul ponte semideserto, a parte qualche fumatore che sfidava impavidamente il freddo per assumere la sua dose di nicotina. Victoria aprì la porta del salone ed entrò. Gli uomini indossavano giacche scure, in genere senza cravatta, le donne erano in abito lungo. Evitando qualunque contatto visivo, Victoria si diresse verso il bar in fondo, dove chiese un bicchiere di vino bianco. Poi si guardò attorno in cerca di Tommy Sten, l'uomo che doveva uccidere. Di fronte al bar c'era un piccolo palco con un microfono, due chitarre, un basso e una batteria. Un tizio sulla sessantina vi salì sopra con un bicchiere di champagne in mano e picchiettò l'indice sul microfono per controllare che fosse acceso. Subito il brusio tacque e tutti i presenti si voltarono verso di lui. «Cari collaboratori, benvenuti a bordo. Tra poco salperemo per una crociera nell'arcipelago». Victoria smise di ascoltare e riprese a esaminare il salone. Vide Tommy Sten proprio mentre l'oratore suscitava una risata generale. Era insieme a una giovane donna ed entrambi sembravano ascoltare il discorso con interesse. Stavano molto vicini, un po' troppo per essere semplici colleghi. Ogni tanto la donna passava la mano su quella di lui, un gesto rapido ma inequivocabile. Non c'era dubbio che ci fosse qualcosa tra loro. Che fosse lei ad avere ingaggiato Victoria? In quel caso, doveva essere fredda come il ghiaccio e completamente fuori di testa. «Salute!» L'uomo sul palco alzò il bicchiere verso il pubblico. Victoria portò il proprio alle labbra e beve un sorso di vino. Non voleva esagerare. Doveva restare lucida, anche se non le sarebbe affatto dispiaciuto smorzare l'ansia con l'alcol. Quando tutti si misero a battere le mani, Victoria posò il bicchiere e si unì agli applausi. Nello stesso istante in cui l'uomo scese dal palco, la nave lasciò la banchina.